ultimamente, in particolare all'estero, riesce a capitalizzare questo sentimento di riluttanza nei confronti del sistema politico e di Berlino. Diciamo i partiti un po' più radicali. Esatto, sì, proprio Mattia Schoen di Linke parlava del fatto che comunque questa rabbia porti le persone, porti i cittadini a votare a Est, ne è un convinto sostenitore, ecco.